Шарманка, шарлатанка, как сладко ты La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Cari amici e nemici della Guardiana del Faro, questa è la nostra ultima puntata. Vi devo dire addio. Oggi non vi parlo del faro di Capo Finisterre. Il faro non c'è più e non ci sono più nemmeno io. C'è stata una tempesta. Era una quieta mattina, trasparente, quando d'un tratto si è sentito un brontolio e poi dei tuoni, come ci fosse un terremoto in cielo. Il mare si è gonfiato, l'orizzonte si è fatto nero, sono scoppiati fulmini e si è diffusa una luce da fine del mondo. Buio, luce, luce, buio, e mi sono ritrovata in un quadro di William Turner, che dico, in Moby Dick, nella pagina più burrascosa di Moby Dick. Io stavo guardando affascinata lo spettacolo, perché dal faro si assiste all'ira del mare, ma come al cinema, lassù ci si sente al riparo. E invece, ecco che si alza un'onda color pece, immane, più alta del faro, bellissima, come un drago cinese con le creste bianche che facevano da denti. In un istante si abbatte sul faro, lo sovrasta, lo circonda e lo ingoia in un boccone. Io sono stata scagliata fuori nel mare insieme alla scrivania che mi ha salvato la vita, perché adesso ci sto aggrappata e così sto navigando. Attorno a me galleggiano gabbiani morti, frammenti di Byron, di Swinburne, di Majakovsky, pagine ormai illeggibili di Michele Mari. Oh, lì c'è Mampracham! No, quello no! Andato. E mentre lotto col mare, cerco di capire se quella forma scura che si sta avvicinando è un'imbarcazione o un muso di squalo. E finché sono in tempo vorrei ringraziare Radio 24 per avermi ospitata in questi 3 anni. E Gianluca Nicoletti, che mi fu maestro dalla prima volta in cui ascoltai la sua trasmissione, che allora si chiamava Golem. Nicoletti ha inventato questo programma e mi ha trasformata in voce, come la ninfa Eco, ma più felice. Ringrazio Gloria Guerrera, compagna di gioco ideale, per il suo istinto radiofonico e maestria e umorismo e bellezza. Senza di lei non ci sarebbe faro. E Alessandro Chiappini, la sua scienza della musica, del montaggio, dello spettacolo, ma poi, soprattutto, il sorriso. Il sorriso che ricorda quello di cui parla Blake. E un sorriso c'è dei sorrisi, sorriso che dalla culla alla tomba sorridere si può una volta sola, quando è sorriso a fine ogni miseria. E ringrazio Antonella Migliaccio, che si è divisa fra la cura della guardiana e quella della sua creatura. E gli amici della redazione romana di Radio 24, amabili come fate, amabili oltre il credibile, grazie ai quali varcare la soglia è sempre stato così lieto. In questa redazione si è data una combinazione rara. Non c'era lo stronzo, quello che non manca mai nei gruppi umani. L'intrigante, l'antipatico, quello che mette i bastoni fra le ruote, quello che spettegola, quello che odia. Beh, qui non c'era. Tutti grandi lavoratori pieni di spirito. Un piccolo Eden anticonformista, ovvero immune dalla prepotenza circostante. Ringrazio Lidia Dell'Oro, raffinata attrice del PS di Chekhov, che è accogliente come un caminetto e generosa come una mamma. Emanuela Mazza, che ha un caschetto alla Louise Brooks, e tutte e due, lei e Lidia, mai coi nervi. O se ce l'hanno, ti fanno capire subito che non ce l'hanno con te. E questo è mirabile. E ringrazio Alessandra Schepisi, una preraffaellita dalla chioma immensa, che ogni giorno si stacca da un quadro di William Morris e viene a leggere le notizie a Radio 24. E ringrazio Andrea Viali, compagno di merende, non nel senso sinistro che si usa abitualmente, nel senso più alto, alla lettera, perché Andrea è il più sincero consumatore di merendine, ovvero colui che sa trarre la maggior delizia da una pizza o da un cremino. non chiappini, ma viali, magro, magro, magro. E dietro la scrivania fa balenare la sua clandestina infanzia di trentenne barbuto. Ringrazio Valerio Rocchetti, spensierato come un giro di valzer, Elisabetta Fiorito e le sue interviste indiavolate, e Sonia Cassaghi, che lavora nella sede di Milano, però è molto presente e mi mancherà, e Fabrizio Intonti, che è amichevole e ritroso, filosofo e fotografo, e le due cose poi si mischiano, e la signora Maria Cassata, che sorride dietro il vetro della portineria come una luna. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Ну как дойти до цели, когда под ребра бьют? Работа есть работа. E ringrazio quelli che ci hanno ascoltato, gli affezionati e i casuali, e soprattutto le orecchie. Grazie, orecchie. Che siate piccole o medie, o smisurate, ben fissate o a ventola, con o senza lobo, quadrate, a punta, lisce, pelose, circonvolute, aguzze da fauno, o rotonde da botero, a stella, a imbuto, a conchiglia, a zuppiera, maliziose o innocue, complici o nemiche, prodighe o avare, molto baciate o per nulla affatto. Vi ringrazio per aver accolto la mia voce come padelle ospitali. Grazie orecchie, a voi e alle persone cui siete attaccate. Con voi orecchie, anzi con voi ascoltatori, avevamo messo su un pronto soccorso amoroso. La nostra insegna era di ferro dipinto col simbolo dell'arte. Un cuore ricucito al meno peggio e una grossa scritta. Aggiustiamo cuori, rammendiamo dignità, lucidiamo corna, diamo consigli inutili. E poi c'era una chiosa in piccolo. La mia: più rispondo alle lettere d'amore, meno ne capisco. Chi scrive è pronto a tutto pur di essere infelice. Cominciai con una frase incauta. Ho tanta fame d'amore che posso sfamare il mondo. Io rispondo come un amante. Rispondo a me stessa. Mi dicono sempre, ma tu da che parte stai? Sono sempre dalla parte di chi desidera. Chi mi scrive si fida di me perché sa che non c'è da fidarsi. Cos'è stata per me la guardiana del faro? È stata per me un lungo sogno, una lunga infanzia. Finalmente la radio, la leggenda di quando avevo 6 anni. Il nonno il martedì diceva a me e a mia sorella: stasera si va all'opera. Ci prendeva una per ginocchio e col libretto ascoltavamo Ernani, Gilda, Nemorino, Mimì, Leporello, davanti a quel bel muso di radica che era l'onore del salotto, il mistero delle voci. La radio allora non era un mobile, non era un elettrodomestico come poi sarà la sua cugina asina, la TV. La radio era una casa. Sapevo con esattezza che dentro c'erano gli omini e le donnine. Gli omini erano vestiti di blu e le donnine in tailleur grigio con lo spacco come nei fotoromanzi della nonna. Io la radio l'ho sempre sognata e inseguita e solo alcune volte sono riuscita a farla. E invece sono andata spesso in TV. Ma perché? Perché sono gli unici che mi hanno voluto. Ma non è il mio mestiere, non ho mai imparato a farlo. Ovvero a non avere paura davanti alle telecamere, a non pensare che se dici una sciocchezza è la figuraccia della scuola ma universale e se ne accorge quando va bene 1 milione di persone. La radio mi ha assolta dall'immagine, mi ha liberata dal corpo. Ha fatto di me una voce che arrivava la notte del sabato o nella pigrizia della domenica mattina. Perché il radio non è che ti devi truccare 2 ore. Il radio non è come in TV, che devi badare a essere presentabile. Il radio ci puoi anche andare spettinata, in ciabatte, coi baffi, coi bitorzoli sul naso. La tua immagine non sarà d'ostacolo alla comprensione. Perché la radio è pura comunicazione. La radio è il mezzo del futuro, come la bicicletta. E la guardiana del faro per me è stato un altro modo di scrivere. E tale la differenza tra la mia presenza televisiva e quella alla radio, che da quando è cominciata questa trasmissione ho ricevuto molte lettere di convertiti che dicono tutti la stessa cosa. Ah, ma allora lei è intelligente. perché io l'ho vista in TV e mi sembrava la solita scema, ma poi la radio invece. Allora seguono insulti sul passato, elogi per il presente. L'ultima è arrivata in questi giorni. Non c'è firma, il nome dell'indirizzo email è Big Joe. E lui mi scrive: non avrei mai pensato di seguire una trasmissione condotta da lei, dato che non avevo di lei una buona opinione, avendola vista in televisione e considerandola una persona superficiale. Ah, si somigliano tanto queste lettere che le posso leggere, Big Joe, più o meno la stessa risposta che diedi a un altro ascoltatore. Comunque, attraverso queste lettere scopro che appena mi faccio vedere risulto insopportabile. I convertiti che scrivono prima di assolvermi, grazie alla guardiana, mi dicono prima delle cose tremende. Però le faccio osservare, Big Joe, che la persona che vede in TV e quella che sente alla radio, tuttavia, sono un po' parenti. Mica sono Dottor Jekyll e Mr. Hyde, e quando vado in TV divento Mr. Hyde, mi faccio spuntare gli unghioni, i peli dal naso e dico un mucchio di banalità. E alla radio, invece, mando a parlare il sensibile Dottor Jekyll. Io in TV ho sempre espresso un pensiero, come nei miei libri, come alla radio. Magari lo avrò detto peggio, ma non ho mai retto il sacco alla stupidità. Superficiale, Big Joe, è il mezzo. Per sua natura, la TV è superficiale, rende chi lo guarda, perché l'attenzione è presa al 90% dall'immagine e soltanto il 10% dalle parole. Lei mi ha vista, ma non mi ha ascoltata, se no una qualche somiglianza l'avrebbe pure trovata. Lei ha visto una vecchia truccata e ha giudicato quello. Ha fatto caso al rimmel. Io lo so che il mio viso non è simpatico. Mi hanno disegnata come una strega. Naso adunco, rughe. E poi l'età non giova, anzi, oggi fa brutto una donna visibilmente vecchia. Abituati come siamo a quelle facce con quella ambiguità da obitorio che non si capisce tra i 40 e i 70 anni. Insomma, vi ho preso le spalle, con la voce. Grazie, radio. E poi mi scuso con tutti quelli che hanno scritto e ai quali non avrò il tempo di rispondere. Mi dispiace, troppo tardi, Luca Benetti, per il tuo libro d'amore, misantropia e giorni perduti. Troppo tardi, Giuseppe Sansò, quasi omonimo del nostro Giuseppe Sanzonna, medico veterinario che riscrive le poesie di Michele Mari praticamente identiche, come il famoso Pierre Menard di Borges, che riscrisse pari pari il Don Chisciotte. Troppo tardi, signora Patrizia Diamante, che se ho capito bene i figli la vogliono cacciare di casa, però la lettera è confusa. Troppo tardi per ritrovare il mio amico Zenzero, ovvero Luigi Corsini, che ho perso per via e non so dove sia e non me ne consolo. E qualche volta ho usato la guardiana come un chi l'ha visto e ho sperato invano che la radio lo riportasse a me. Troppo tardi per parlare del libro di Betti e Lietta Manganelli, intitolato Le favole di Betti, una meravigliosa fiaba illustrata che Betti ha lasciato morendo a 20 anni. E poi troppo tardi per parlare del romanzo di Rosa Romano Toscano, Memorie di un fedele servitore, pubblicato dalla bella casa editrice Porta Parole. E ringrazio anche Marco Fabio Polloni, Ugo Doyle e Giuseppe Sanzonna, che hanno prestato le loro belle voci alle nostre recite in casa. E ringrazio tutti quelli che hanno parlato del Faro, in ordine alfabetico, sparso e casuale, perché sono troppi a dirli tutti: Ambra Angiolini, Franco Battiato, Alessandro Bergonzoni, Nadia Bizzotto, Piero Chiambretti, Claudio Ciaravolo, Filippo Martinez da Oristano, Giorgio Conte, Carlo D'Amicis, Gianluca Di Candia, Piera degli Esposti, Maria delle Acciughe, Tiana Gerkovic, Giuliana Gamba, Alessandra Fiori, Luca Guadagnino, Genevieve Macaping, Michela Murgia, Antonio Pennacchi, Platinette, Marco Travaglio, Paolo Villaggio. Troppo tardi per ringraziare Paola Basile, degli amici del Museo della Figurina, che hanno presentato i loro lavori al Festival Filosofia di Modena. Non è troppo tardi per mettermi in contatto con Lisa, che chiedeva la copia del mio racconto, e visto che ha mandato l'indirizzo mail, cara Lisa, te lo manderò personalmente. Шагаю еле-еле, вершок за 5 минут. Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут? Работа есть работа, работа есть всегда, хватило б только пол... La guardiana del faro. You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. Ed ecco le ultime predizioni, gli oroscopi estremi di Simon and the Stars, che anche se la guardiana finisce oggi non vi lascerà certo orfani, perché potete trovare i suoi risponsi sulla rivista Glamour e sulla pagina Facebook Simon and the Stars. Grazie Ortolano, grazie astrologo, grazie amico. Grazie a te Barbara. Oggi iniziamo con, abbiamo un oroscopo particolarmente importante perché parliamo delle lune nuove che rappresentano un inizio. E vorrei iniziare con questa immagine. È come se la luna e il sole ogni mese si incontrassero in un diverso segno ed il sole consegnasse alla luna un messaggio, un insegnamento da consegnare a sua volta a noi nel corso del mese, durante le sue fasi. È chiaro che durante la fase della luna piena vedremo questo messaggio in modo più chiaro, in modo più manifesto, però l'inizio è proprio con la luna nuova. In questo caso la luna e il sole si incontrano nel segno della bilancia, che è il segno degli equilibri, è il segno della via di mezzo. La bilancia non ama qualunque estremo, per la bilancia comunque l'equilibrio è nel mezzo. La congiunzione tra il sole e la luna porterà quindi un insegnamento diverso segno per segno a seconda dell'area della casa natale in cui questa congiunzione cadrà. Quindi cominciamo con l'Ariete, al quale la luna nuova insegna un modo più equilibrato di vivere le relazioni. L'Ariete è solitamente un segno molto esuberante e quello che dovrà imparare in questo mese di ottobre è conciliare questa sua esuberanza con un pizzico di immedesimazione in quello che le proprie azioni possono produrre nell'altro. Questo vale innanzitutto nella relazione di coppia, però anche in tutte le collaborazioni più profonde, quindi immedesimarsi nell'altro e riflettere un po' su quello che le sue azioni possono produrre nelle persone che gli stanno vicine. Per quanto riguarda il Toro, l'insegnamento della luna nuova è un modo più equilibrato di prendersi cura del proprio benessere. Per il Toro è molto importante prendersi cura del benessere altrui, quindi soprattutto a livello materiale, quindi cucinare per gli altri, accudirli e via dicendo. Ma ultimamente ha un po' trascurato quello che è il proprio benessere e tende a definire se stesso attraverso quello che fa per gli altri. In questo mese di ottobre il messaggio importante della luna è: imparate a chiedere e imparate a riportare su di voi una serie di attenzioni soprattutto legate al benessere psicofisico e al corpo. Per quanto riguarda i gemelli, continuo a dire che l'insegnamento della luna riguarda l'evitare la dispersione di energie e trovare un equilibrio più profondo rispetto al fatto di scegliere e di selezionare a quali cose è bene dedicarsi e quali invece rappresentino solamente una perdita di tempo e una dispersione di energie. Per quanto riguarda il Cancro, la luna nuova mostra un modo più armonico e più equilibrato di vivere la propria casa e di relazionarsi alla propria famiglia. Per il Cancro è un passaggio, un transito molto importante questo di ottobre, perché tende a testare la loro perseveranza e quanto credano nei loro nuovi progetti, per cui è probabile che si verifichino ritardi, lungaggini, tutte situazioni non gravi ma che in qualche modo testano quanto credono realmente nelle cose. Per esempio, per i più giovani che magari hanno lasciato la casa il paese d'origine per dedicarsi a quelli che sono i loro sogni, è molto probabile che la famiglia tenda a riportarli a casa, tenda a testare la loro reale convinzione ponendo una serie di dubbi e tentando di riportarli all'ovile. Per quanto riguarda il Leone, l'insegnamento della luna nuova riguarda un nuovo modo più equilibrato di comunicare e di dialogare. Il Leone tende a insegnare, tende a mostrare la via, tende a mettersi al centro dell'attenzione, invece probabilmente in questo mese di ottobre è molto importante che impari nuovamente ad ascoltare e ad imparare. Per quanto riguarda la Vergine, la luna nuova porta un insegnamento che riguarda il lavoro e l'utilizzo del loro talento e in generale l'ambito dei soldi. Diciamo che la Vergine ultimamente si è affaticata moltissimo, si è spesa moltissimo, ha messo in gioco le proprie energie e il proprio talento, ma a questo non ha corrisposto un adeguato guadagno. deve trovare un equilibrio tra la propria fatica e la redditività del proprio lavoro. E non è una questione che riguarda i soldi, chiaramente, ma una questione che riguarda, diciamo, un equilibrio sostenibile di sfruttamento delle proprie energie. Quindi evitare di disperderle laddove non è importante e concentrarle laddove vedete che realmente ci può essere un'evoluzione. Per quanto riguarda la bilancia, il discorso è un po' diverso, perché questa luna nuova è una luna nuova in bilancia, quindi forse questo è l'unico caso in cui non è la luna a portare a noi un insegnamento del sole, ma il contrario, cioè la luna a prendere quelli che sono i desideri della bilancia e condurli al sole affinché con questo possa iniziare un nuovo ciclo. La bilancia infatti sta per avere il proprio ritorno solare, il sole sta per ritornare nella stessa posizione che aveva nel giorno di nascita, e questo porta in qualche modo un nuovo anno nel quale è molto importante mettere a fuoco quelli che sono gli obiettivi, quelle che sono le cose che non hanno funzionato e come devono cambiare. Quindi diciamo che per la bilancia l'importanza di questa luna nuova è proprio di consegnarle dei desideri al positivo chiaramente, quindi vedere una propria nuova immagine e consegnarla all'anno che sta per iniziare. Per quanto riguarda lo scorpione, l'insegnamento è quello su un equilibrio maggiore sul vostro silenzio interiore e sulla vostra spiritualità, cioè va bene essere riflessivi e molto introspettivi, ma senza isolarsi. Per quanto riguarda il Sagittario, la luna nuova insegna un equilibrio maggiore rispetto ai propri desideri e alle proprie speranze. In questo momento il Sagittario tende a vivere un po' proiettato nel futuro, però bisogna non perdere di vista quella che è l'importanza di una quotidianità e il rispetto di una quotidianità. Per il Capricorno questa luna indica una nuova via sul successo e sulle soddisfazioni professionali che ultimamente hanno rappresentato una piccola ossessione. Probabilmente il Capricorno deve imparare innanzitutto ad amare quello che fa e le soddisfazioni arriveranno come conseguenza, ma non deve vivere per il successo e per il riconoscimento. Per quanto riguarda l'Acquario, la luna nuova introduce una maggiore attrazione verso l'estero, e questo lo dicevamo già nelle volte precedenti, però questo viaggio verso l'estero, questo allargamento verso nuovi progetti, questo ampliamento dei propri confini, non deve perdere di vista il fatto che ogni viaggio è fatto di piccoli passi, quindi tenere sempre d'occhio la prudenza e tenere sempre d'occhio il fatto di non fare dei salti nel vuoto. Per quanto riguarda i pesci, l'insegnamento della luna nuova riguarda una maggiore attenzione per la loro vita quotidiana e per la praticità delle cose. Sicuramente i pesci sono molto portati all'introspezione, ma a volte perdono di vista un po' il senso pratico, che invece, appunto, la bilancia vuole il contemperamento degli estremi, occorre anche quello. Quindi questi sono i temi che segno per segno la luna nuova porterà nella vita di ciascuno di noi. Li vedremo apparire come una sfida tra una settimana, il 12 di ottobre, in occasione del primo quarto, li vedremo manifestarsi in modo più chiaro e più palese in occasione della luna nuova, e ci daranno una nuova saggezza con l'ultimo quarto di luna. Com'è bella la luna, com'è bella la luna, com'è bella la luna. Magari a qualche ascoltatore dispiacerà che finisca la Guardiana del Faro, però c'è qualcuno che ne sarà veramente contento, che si farà un brindisi e un balletto. Ed è il lettore Luca, che ascoltandomi parlare del libro Addio a Roma di Sandra Petrignani e intervistare l'autrice, ci ha mandato una lettera veemente. Ve ne leggo un brano, lui aveva appena letto il libro della Petrignani. Il libro è per me di fresca lettura. L'ho fatta in quanto tratta questioni che affronto da tempo e su alcune delle quali sto conducendo una ricerca che potrebbe portare un libro nei prossimi tempi. Sono rimasto intellettualmente disgustato per le falsità diffuse, l'assenza di qualsivoglia senso critico rispetto al libro, superficiale e ideologicamente preconcetto, la conduzione da salotto per bene, con l'augurio che lei sappia fare di meglio e specialmente tenere la posizione maggiormente distante dalla piaggeria verso i suoi ospiti. Allora, ma quanto è antipatico lei! Ma che smania di potere! Ma che ego rimbombante! Ma che voglia di offendere! Ma che certezza paranoica di avere la verità in tasca! Lei si dichiara intellettualmente disgustato. Io la dichiaro intellettualmente disgustoso. Lei non sa cosa sia la dialettica. Se uno ti dice stai dicendo sciocchezze, poi ti dovrebbe spiegare perché. No, lei non si degna. Lei ci ingiuria senza un accenno di argomentazione. E così la sua verbosa invettiva equivale alle corna fatte fuggevolmente dal finestrino della macchina o alla bastonata sul muso di un hooligan. L'unica cosa chiara è che lei sta scrivendo un libro sullo stesso tema ed è l'unico degno di farlo. E ce la farà vedere lei a noi. Però non ci fa balenare nemmeno una scintilla della sua rivelazione luminosa. Oh, e poi lei dice, e questa non gliela passo, signor Luca, la piaggeria verso i suoi ospiti. Lo sa Luca che questo è il suo autoritratto ed è un brutto autoritratto. Lei ha una mentalità così servile che se sente uno che parla bene di un altro non può trattarsi che di piaggeria. Si vede che lei non conosce la sincerità e non conosce la gioia dello scambio artistico. E pensi un po' che con Sandra Petrignani mi sono limitata all'entusiasmo. Ma posso sconfinare anche nell'adorazione. Se mi sentisse parlare di scrittori come Michele Mario, come Antonio Pennacchi, alle cui opere io vivo abbarbicata quotidianamente, che mi nutrono, mi ispirano, mi sostengono, cosa penserebbe? Che questi due mi stipendiano? Così ragiona soltanto una marchetta. E manco è stato a sentire, tra l'altro. Si vede che quando ascolta la radio lei non sente perché il suo io molesto fa molto rumore. O forse non ha capito. Perché io dicevo che addio a Roma mi rallegra non per la verità storica, ma per lo slancio visionario, per l'atto di fede dell'autrice che trasforma la vita artistica di Roma dal 50 al 75 in una specie di Parigi, la Parigi di Picasso e di Apollinaire. Questa è la mia ragione, ma un grande scrittore simile a nessuno che ha vissuto quei tempi, un uomo geniale che se lei lo accusasse di piaggeria credo le romperebbe un dente, Alberto Arbasino, ha amato profondamente il libro della Petrignani trovandolo vero. Lui che ci ha vissuto, lei non credo. E poi guardi, lei si confonde. Credo che mi scambi per Bruno Vespa. Io invece mi chiamo Alberti e l'anagramma del mio nome è Libertà. La libertà è sempre stato il lusso della mia vita. E della libertà fa parte anche saltare al collo a chi mi pare, alla faccia sua, signor Luca, con un'intensità che lei non conoscerà mai, salvo nella glorificazione del suo enorme e sospetto immotivato ego. Promette un capolavoro, ma scrive una lettera mediocre. La violenza non basta, ci vuole il talento. La guardiana del faro. Ma adesso, visto che l'ultima puntata è venuta l'ora della verità, ovvero il disvelamento del gioco. Adesso che sono anch'io una donnina fra le valvole, e parlo dal faro, parlavo, gli ascoltatori vogliono sapere. Ma il titolo è simbolico o reale? Abiti davvero in cima al faro di Finisterre? E un'altra lettera che arriva di frequente è quella di chi è andato a Finisterre, è venuto a farmi visita ed è rimasto male. Il signor Massimo Flematti, che è uno di questi, l'ultimo, ha avuto il fair play di raccontarci la sua delusione. A fine maggio ho avuto l'occasione di visitare Finisterre e il suo capo col famoso faro. Avendo poco prima ascoltato la sua trasmissione, ho pensato di farle visita. Mi sono recato al museo e ho chiesto alla cortese impiegata se era possibile incontrare la signora Alberti. Dato lo stupore con cui mi ha guardato, ho raccontato ciò che avevo sentito alla radio, ovvero che nel faro di Finisterre, per gentile concessione della Capitaneria di Porto, vive in volontario esilio Barbara Alberti. L'impiegata mi ha guardato sbigottita e poi è scoppiata in una sonora risata, dicendomi che era una presa in giro e che lì nel faro non abitava nessuno. Poiché ritengo che quanto lei afferma nel suo programma non sia una presa in giro, mi piacerebbe sapere dove si trova il faro in cui lei vive. Massimo Flematti. La sua lettera, Massimo, tra quelle sull'argomento, è in assoluto la più cortese. Altri invece, che come lei sono andati là, si sono arrabbiati moltissimo. Lettere di insulti, ah, imbrogliona, ci ha ingannato, o come dice lei, presi in giro. Ma insomma, abito al faro o no? Ma sì, certo. Come nei versi che Borges ha dedicato a Lodovico Ariosto. Chiedo perdono in anticipo per la mia pronuncia spagnola e spero che Borges non venga a bastonarmi in sogno. Però è un omaggio, per dirla come lui l'ha scritta. Como todo poeta, la fortuna e il destino le dio una suerte rara. Iba por los caminos de Ferrara y al mismo tiempo iba por la luna. Come ad ogni poeta, la fortuna e il destino gli dio una sorte rara. Andava per le strade di Ferrara e al tempo stesso andava per la luna. Senta Massimo, io sono rapita e consolata dal fatto che si possa avere tanta immaginazione da prendere la nostra affabulazione alla lettera. Ma il faro non è una presa in giro, è un sogno. Il faro è una fiaba e una metafora. Il faro è un luogo dello spirito, è un'altra dimensione dove vi abbiamo invitato per abitarci insieme. Il faro se l'ha inventato Gianluca Nicoletti come rappresentazione di un desiderio. Magari, Massimo, vivessi in cima a un faro. Oddio, che l'impostazione di questa trasmissione non fosse precisamente giornalistica, ma piuttosto ludica, con delle punte surreali, c'erano dei segnali. Scusi, lei non ci avrà sentito sempre, ma quando abbiamo intervistato l'angelo custode di Antonio Pennacchi, era una presa in giro? O un gioco? Pensava davvero che ci fosse lì la creatura alata che parlava il romanesco? E quando abbiamo intervistato Eros Morente, credeva davvero che al microfono ci fosse il Dio in persona? No, erano Marco Fabio Polloni che faceva l'angelo custode e Giuseppe Sanson che faceva Eros. Stavano giocando con voi e con noi, e anche adesso, a dirla tutta, non è che sto aggrappata a una scrivania tra i marosi. Sto nella sede di Roma coi bei volti di Alessandro e di Antonella che splendono dietro il vetro. Nicoletti mi mandò al faro perché mi conosce. Come nota biografica al libro sulla guardiana del faro pubblicato da Liberti, ho scritto su di me: metà chioccia, metà avventuriera, oscilla fra i tempestosi mari e il pollaio. Io non vivo solo al faro, vivo in una famiglia piena di gente. E poi, scusi il dettaglio, ma io devo pure lavorare per vivere. Ci vuole anche una statura economica per isolarsi dal mondo. E quando riesco a raggiungere il tavolo da lavoro, è un premio e un traguardo. L'idea del faro, Nicoletti, gli è venuta perché il mio studio è in cima a una torretta. E quando viene mi dice sempre: ah, è come vivere in cima a un faro. Ed essendo un apocalittico, ha scelto Finisterre. E anche Nicoletti, che è un artista d'avanguardia, ma anche una grande chiocciola che porta oltre la gioia il peso della famiglia e agognerebbe un po' di solitudine per essere libero nei suoi studi e nei suoi pensieri. E mandando me al faro, ci ha mandato un po' anche se stesso. Io, Massimo, per metà del tempo faccio la casalinga, cioè il somaro del focolare. Non è che se scrivi i libri l'affetto ti porti meno impegni. Se ti fai una famiglia, è un contratto amoroso a vita. Sei in servizio finché ti reggi. E se no, dovevi restare sola. Ci dovevi pensare per tempo. Io invece sono un animale affettuoso. E troppo avevo e ho bisogno di stringermi alle altre creature. E mi ci stringo. Però quando riesco a isolarmi e a dar libero corso alla scrittura e ai pensieri, ecco, quello è il faro. Vivo nel mio amato pollaio, poi vengo qui alla radio e sogno. Non più chioccia. Divento eroica e solitaria. Guardo il mare davanti a Finisterre e pensi che nei giorni limpidi riesco a vedere laggiù, oltre l'oceano, le punte dei grattacieli di Manhattan. Ma se la guardiana del faro è una presa in giro, allora lo è tutta la letteratura. Ma tu prendi forse in giro tua figlia quando le racconti il mago di Oz? E che Dorothy col suo cagnetto viene rapita in aria da una ventata con la casa e tutto e viaggia per tutta l'America? Io, Massimo, prego te e gli altri, con la dolcezza che si addice al congedo, di non sentirvi truffati se siamo stati insieme a metà fra cielo e terra, tra Stevenson e Conrad, fra Borges e Ariosto. Non vi abbiamo mentito. Siamo saltati insieme sull'ippogrifo. Iba por los caminos de Ferrara e al mismo tempo iba por la luna. Ehi, sta per finire. Sta davvero per finire. Come ricordo, vi lascio un libro, La guardiana del faro, che raccoglie le storie e le conversazioni e le lettere d'amore lette in trasmissione, scritto con Gloria Guerrera. Si chiama La guardiana del faro, edizione Liberti ed è libreria. Mi ritroverete sulla rivista Glamour e spero in un'altra radio dove conto di ricostruire il faro e la guardiana. Buonanotte, buonanotte. Lasciarsi è un dolore così dolce che direi buonanotte fino a giorno. Mi scusi Shakespeare se mi servo di lui per salutarvi. Come addio un po' sbruffone, vi rileggo la poesia di Andreadi, canto di liete sequie, di solito riferito all'amore, ma qui alla radio. Ciò che trascorre si fa brutto. Nemmeno la tristezza è bella, se è spenta. Da lungo tempo odio il passato e dico ai piagnoni: beato chi seppellisce con lietezza. Finire è l'ordine della gioia. E senza fine vengono le gioie. Tutto ciò che è vergine fresca. Lascia la zitella dei ricordi. E libero e lieto afferra il presente. Chi non è oggi non è mai stato. Ricordare è un peso da schiavi. L'uomo libero dimentica e se ne va. E poi, come chiusura, brutta parola che sa di Chiavistelli, vorrei salutarvi come vi salutai all'inizio, nell'ottobre del 2010. Grazie per averci fatto compagnia, per averci amato e odiato, elogiato e insultato, vostra guardiana. Saluto quelli che soffrono per un amore impossibile, perché lui o lei è troppo giovane o troppo vecchio, o troppo sposato, o troppo ricco, o troppo povero, o troppo bianco, o troppo nero, o troppo maschio, o troppo femmina. Saluto quelli che si amano in silenzio, da 5 minuti o 15 anni, e forse non se lo diranno mai. Saluto la ragazza amante di un uomo sposato, che soffre per anni vicino a un vigliaccone che non lascerà mai la famiglia, e che della vedovanza perenne la consola, appena fatto l'amore, col piantino da coccodrillo parlandole bene della moglie, la santa, colei che viene offesa, da lui, mica da lei. Mando il mio saluto appassionato all'uomo che ama l'uomo, alla donna che ama le donne. Un cenno d'intesa fra noi, creature dell'inferno, che non dormiamo da 6 mesi, sperando che lei venga al bar per una volta senza il marito e poterle dire buongiorno, signora. Capitane di Aliporto, interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Antonella Migliaccio.